ocho, si lo podrás armar. Soy de mucha época ya, se me debe andar. Ma il nostro sogno fiorito cogirà in là, il mio cuor non lo potrà dimenticare. Accarezzandoti le mani, nel salutarti ti dirò, finché per noi sarà domani, io t'amerò. È tanto triste star lontani, ma è così dolce il ritornar di quegli istanti che rimani con me a sognar. Ad ogni fior che non potranno sbocciar mai più, si perde il giorno con il morire del sol laggiù. Accarezzandoti le mani, nel salutarti ti dirò, finché per noi sarà domani, io t'amerò. Salutarti ti dirò, finché per noi sarà domani, io t'amerò.